Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Voi ve la ricorderete la pubblicità che facevano, quella del Mulino Bianco, 7:30 di mattina, che in una famiglia è il momento in cui diventi Jason con la sega elettrica in mano e Hannibal the Cannibal. Non esiste uno che non abbia un nervoso addosso. 7:30 di mattina, prima inquadratura sta donna che ha preparato la colazione. Come sarà ridotta? Te le immagini, vestaglia, bigodini, ciabatte? No! Un pezzo di gnocca atomico! Io sono l'ultima persona al mondo che ha dignità e diritto di parlare di famiglia. Perché? Perché ormai è noto, l'ho scritto e l'ho detto, io feci un atto ufficiale di sfamiglio qualche anno fa e non ho voluto più avere niente a che fare con la mia famiglia d'origine. Però vedo che, bene o male, riesco a gestire una mia famiglia costruita e acquisita. Vedo che questa è la difficoltà che maggiormente impegna la mia giornata, ma vedo con grande piacere, grande soddisfazione, ma anche con grande perplessità, che la famiglia è un tema ricorrente. La famiglia sembra stare a cuore a tutti, dal laico al confessionale, al credente, a colui che ha un mondo di riferimenti superiore. Comunque sono tutti d'accordo che la famiglia è il nucleo centrale della società, che senza la famiglia non si ricostruisce la società, che il mondo civile non può fare a meno della coesione della famiglia. Bellissime parole, mi sta bene, fino a un certo punto. Io profetizzo che la famiglia è qualcosa di ormai obsoleto, che non sarà più naturalmente il ganglio su cui si impernia tutta la società, ma cambierà, diventerà qualcos'altro. Ma allo stato attuale c'è la famiglia, c'è tuttora la famiglia fatta di persone che comunque dalla mattina alla sera si smazzano un sacco di problemi, con l'illusione o la fondata certezza che qualcuno possa in qualche maniera occuparsi anche, non dico di risolvere i loro problemi, ma rendere loro la vita più facile. Ma perché oggi voglio parlare della famiglia? Perché nella famiglia, allo stato attuale, su chi sta profondamente, radicalmente, la maggior parte del peso di una famiglia? Beh, tuttora, che se ne dica, nonostante la proclamata eguaglianza tra generi, o perlomeno tendenza all'eguaglianza generi, sta sulle mamme. Le mamme ancora sono quelle che si prendono il massimo onere di una gestione familiare. Perché? Perché siamo una società, per quanto avanzata, o almeno nell'ipotesi desiderosa di dare nuove forme e nuovi assetti, in realtà è basata sul fatto che sarebbe meglio comunque che gli uomini andassero a lavorare e le donne stessero a casa. Se ciò non accade, naturalmente lo possono fare, ma a loro scapito, a loro rischio e pericolo. Rachele Bonani, buongiorno. Buongiorno. Perché ho qui Rachele Bonani? Rachele Bonani è una mia collega, lo devo dire, lo ammetto, non è che sembra che l'ho cercata attraverso accuratissime ricerche. Io la vedo ogni giorno indaffarata, oltre nel suo lavoro, da tutta una serie di chiamate telefoniche, di impegni quotidiani che io in parte ho dimenticato avendo i figli già grandi. Rachele Bonani ha 3 figli, 10, 5 e 3 anni, ma oltre a gestire i propri figli è anche una mamma socialmente impegnata, al termine giusto? Sì, assolutamente. Tu ti occupi anche dei figli degli altri? Io mi occupo dei miei figli e dei figli degli altri, perché chiaramente ritengo che l'educazione principale per i nostri figli sia quella di crescerli all'interno di una comunità in cui appunto questa parola partecipazione acquista il significato che tutti sembrano dargli, ovvero che lo Stato siamo noi e in qualche modo anche questo Stato sociale e questa preoccupazione per organizzare la vita dei figli, dei futuri leader, ce la dobbiamo prendere noi, assumere noi come mamme, come genitori. Dai, i figli dei leader non hanno problemi, vedi, abbiamo parlamentari che porgono la tetta turgida al bambino, dallo scranno del loro ruolo istituzionale. A te mai è capitato di allattare un figlio sul posto di lavoro? Diciamo che nella mia qualità di freelance, o anche meglio precaria, posso dire che se avessi addosso, portato... Dai, sempre questa storia. No, non mi piango addosso, credo che sia la formula, anzi voglio essere una consulente per poter conciliare i tempi della maternità e della professione, però in quanto tale sicuramente non mi sono mai potuta permettere di portare un figlio attaccato alla tetta in un ambiente di lavoro, perché non mi avrebbero riconosciuta come una professionista e non mi avrebbero permesso di allattare serenamente mio figlio. Quindi sempre fare una distinzione, tuttora, se ti presenti per un lavoro come professionista è meglio che tieni in ombra il fatto che tu sia mamma. Ma sì, diciamo che il primo lavoro ho anche nascosto di essere incinta per poterlo mantenere. Vedeva. No, fino a 7 mesi no, perché il datore di lavoro pensa che i figli siano appunto un'occupazione generazione solo materna, e quindi se tu hai tre figli sei già impegnata per occuparti dei tuoi figli e quindi al lavoro probabilmente renderai meno. Invece di capire che siccome già ti occupi di una famiglia che è un'azienda, potresti rendere molto di più e soprattutto non perdi tempo perché c'hai altro quindi, scusa, da fare. Quindi scusa, la mia intuizione era esatta, Rachele, che in effetti sono soltanto chiacchiere. In realtà radicalmente la nostra società è convinta che le donne debbano stare a casa perché è meglio a gestire i loro bambini. Sì, infatti penso che questa sia una fandonia. Io ti dico che appunto la mia impegno sociale si traduce in un network Mamma Aiuta Mamma che si ispira a quello che prima di me nel 78 ha detto Yunus, che è anche un premio Nobel per la pace: lasciate che le donne si parlino. Credo che la mia azione sia un risultato. Io mi ricordo quando mia moglie doveva allattare un figlio, chiedeva all'orario, gli dicevano i colleghi al giornale, sempre con queste smanie femministe. Capito, e poi sei anche un'isterica quando allatti, cioè ci sono talmente tanti pregiudizi da abbattere nella testa, nella mente delle... Quindi tu hai fatto un network di mamme, che è una cosa singolare, che di solito i network si fanno per discutere di massimi sistemi, per difendersi da una infame, atroce violenza, per salvaguardare l'immagine della donna così atrocemente maltrattata dal voyeurismo maschile. Ma le mamme che fanno un network è una cosa singolare. È più che altro perché sono tornata a casa un giorno pensando di trovare la casa vuota e mio figlio che fosse al parco, invece ho trovato mio figlio davanti ai cartoni e la sua tata che si era riccamente chiusa in camera mia con uno sconosciuto amabile che aveva conosciuto al parco, e lì per lì mi sono detta: ma vale la pena lavorare e guadagnare per pagare un'altra persona che deve occuparsi dei tuoi figli e se ne occupa probabilmente in questo modo? Cioè, la tua tata è andata a trombare sul sacro talamo coniugale, violandolo. Sacro talamo coniugale, mettendo mio figlio davanti ai cartoni, che per fortuna era talmente preso dal cartone che non si è occupato di altre cose. Nicole Biondi, buongiorno. Buongiorno. Io sto chiamando un po' di mamme che appartengono a questo network perché mi ha appassionato quest'idea che le mamme in qualche maniera, in maniera sommessa, silenziosa, mai troppo evidente, se non scovavamo la nostra collega non l'avremmo mai immaginato, si stanno organizzando. Nicole, qual è, diciamo, il tuo punto di vista rispetto alla premessa di questa trasmissione? Che al di là delle buone intenzioni, delle campagne elettorali, del fatto che tutti sappiamo, è un po' come oggi vanno più di moda i cagnolini, parlare di cani e gatti per commuovere un pochino l'attenzione degli elettori, ma diciamo che il bambino è sempre funzionato, la mamma col bambino è sempre stata una bella immagine, ma la tua realtà invece com'è? Ma devo dire anche io grandi difficoltà, anche io da freelance ho dovuto abbandonare per un certo periodo avendo fatto due bambini uno di seguito all'altro, hanno 3-5 anni, quindi per buon 5 anni ho dovuto abbandonare completamente il mio vecchio lavoro, ne ho presi altri di lavori, però insomma la mia vecchia passione per quello per cui avevo studiato, per cui avevo lavorato, per cui avevo fatto gavetta l'ho dovuta accantonare perché avevo orari troppo rigidi per poter... stare anche vicino ai miei bambini, però nello stesso tempo mi sono resa conto che ne avevo bisogno, era cioè, la mia vita, nel senso che una mamma deve essere una buona mamma se si occupa anche di ciò che le appassiona, non può essere una persona isolata dal mondo che custodisce, come si dice, il focolare. Cioè, questa mattina mi sembra aver capito che ho individuato un segmento materno. Chissà perché se ne parla pochissimo. Guarda, o ci sono le mamme a tutti i costi, quelle che fanno atti eroici, fanno giri del mondo, fanno inseminazioni ardite. O le mamme, ti spiego, le mamme che si lasciano massacrare per impugnare il fatto che ancora mamma significa qualcuno che deve dedicare la sua vita totalmente ai figli. Voi siete qualcosa di molto inedito, siete mamme che vediamo ogni giorno confuse tra le nostre colleghe, non ci rendiamo nemmeno conto che quando noi torniamo a casa, noi, non è il mio caso, ma la maggior parte delle persone che lavorano hanno soltanto il problema di con chi prendere l'aperitivo o come passarsi la serata. Poi c'è una serie di persone che in realtà il lavoro inizia quando tornano a casa. Esatto, e in questo sicuramente, come diceva anche Rachele, l'unica nostra salvezza è proprio questo di sapere che non siamo sole, cercare di organizzarci, e quello che per esempio io faccio parte anche di un comitato genitore dell'istituto che frequentano le mie figlie, l'istituto comprensivo Largoriani, cercare di formare una rete di mamme che come me, come Rachele, come tante altre vorrebbero che di questi bambini non si occupassero le singole tate, ma se ne occupasse proprio un'intera generazione. Quindi voi siete anche le donne a cui dobbiamo essere grati, noi snaturati che mai siamo andati a una riunione di classe, che abbiamo sempre snobbato tutte le iniziative, che al massimo diamo i 10 euro per fare il regalino alla maestra e non ci occupiamo di più. Se abbiamo avuto qualcosa, semmai negli anni, lo dobbiamo a voi che vi siete impegnate. Ma questo non lo so, non voglio... No, per me è così stato. Ah, beh, io trovo che sia molto importante il fatto di collaborare e soprattutto il fatto che dell'educazione dei figli non si occupi una singola madre, ma se ne occupi un intero quartiere, cioè, insomma, voglio dire, è il mondo, nel senso che i figli non sono miei, di Rachele o suoi, sono di tutti, perché loro sono i nostri futuri leader, alcuni di loro saranno i nostri futuri leader. Già l'ha detto anche Rachele, voi state diciamo, siete una sorta di setta il cui scopo è formare i nuovi leader, no, questo mi interessa. Assolutamente, però avere per esempio dei bambini che percepiscono la cosa che ci sta intorno come di tutti, insomma, già aiuterebbe a non sfruttare la cosa banalmente e cercandone profitto personale, cioè capendo che le cose che ci stanno intorno sono di tutti. Questa mattina stiamo individuando il social network dei social network, quello delle mamme organizzate, delle mamme che lavorano in maniera sotterranea, quasi clandestina, poi si stanno organizzando per fare qualcosa che in realtà non esiste, non ho letto in nessun programma, le mamme organizzate che vogliono trasformare in un social network la gestione dei figli. E questo è il modello di famiglia evoluta su cui sto cercando di ragionare, che Jacques Attali aveva semplicemente allucinato dicendo non ci sarà più niente, nemmeno l'amore, abituati come siamo al multitask sentimentale, relazionale, emotivo, lo faremo anche nella coppia. Melog, Cronache Meridiane. So che per molti oggi ci sarà lo shock di ritrovarmi in una veste inedita. Come? Non le prendi in giro, non le stracci, non parli delle mamme strappalacrime, delle mamme distruzione di ogni figlio, delle mamme castratrici, delle mamme distruttrici. No, oggi sono molto incuriosito all'idea che esista questa sorta di setta di mamme organizzate. Sì, come tale la chiamo perché sono sommesse, non ho mai letto nessuna parte. Hanno un social network e stanno cercando in qualche maniera di compartecipare, di vedersi l'onere di allevare dei figli in maniera corretta, che non siano semplicemente merce che diano necessità di esistenza a tate babysitter, che riempano le liste delle palestre, delle piscine, dei luoghi di aggregazione, delle mamme che non siano delle mamme tassiste, che non soltanto portare i figli da un posto all'altro, ma vivano per quanto per loro possibile anche il mondo del lavoro, perché è importante, è necessario, bisogna anche portare dei soldi a casa, perché quelli del padre probabilmente da soli non bastano avere una vita dignitosa, ma devono allo stesso tempo essere comunque a tutto tondo anche madri. Gabriella La Rovere, buongiorno. Buongiorno. Con Gabriella ci conosciamo, è un altro tipo di mamma. Oggi ti ho inserito a forza nel network delle mamme organizzate perché anche tu devi portare il tuo contributo e la tua parte. Tu sei una mamma un po' particolare, e ti conosco, ti riconosco e so bene qual è la tua storia. Riassumila velocemente così vediamo se mi aiuti a dare un contributo rispetto a quello che stanno facendo queste mamme. Hanno deciso di organizzarsi, hanno deciso di non aspettare più, hanno deciso di non lasciarsi più illudere da quelle che sono le chimere, le illusioni che dicono che la famiglia al centro di tutto, faremo tanto per la famiglia. Io pure sono una mamma organizzata, nel senso che mi sono organizzata un modo di vivere che consentisse a mia figlia Benedetta, affetta da una malattia rara che era sclerosi tuberosa e che porta da un autismo secondario, quindi mi sono organizzata in modo tale che lei potesse trovare la sua strada e si potesse esprimere. Quindi non ho lasciato mia figlia tanto disabile in un angolo a fare qualcosa, ma essendo un medico ho utilizzato con lei il metodo scientifico dell'osservazione, cioè quando, pur essendo medico e sapendo magari come muovermi, quando non sapevo cosa fare, perché Benedetta ha 22 anni e all'inizio con lei poche cose si potevano fare o si pensavano di poter fare, allora mi fermavo, la guardavo e procedevo dal punto di vista educativo con cose nuove. Ho applicato con lei forse un metodo antico, un metodo montessoriano della stimolazione sensoriale dei sensi e ho utilizzato l'arte come sistema comunicativo con lei che non comunicava, e quindi tutto quello che poteva provocare in qualche maniera emozioni, dalla pittura, la scultura, teatro, il cinema e soprattutto la lettura. E qual è il risultato, diciamo, che più ti rende fiera in questi giorni? Diciamolo, perché per questo il risultato è che mi sento un po' manager, e Benedetta è stata invitata a Londra sabato prossimo a suonare, a esibirsi nell'ambito di Autism Got Talent, che è un grosso evento internazionale che raccoglie talenti musicali da ogni parte del mondo, naturalmente persone affette da autismo. Benedetta è, penso, l'unica italiana a essere mai stata invitata. Mi sento orgogliosa perché ho pensato che... Suona le percussioni, Benedetta, ha trovato un talento Benedetta fantastico. Suona le percussioni, è un talento naturale in questo. Lei non ha una cognizione neanche a morire di tecnica. Lei suona perché lei è essa stessa, è un pezzo unico con lo strumento. E quindi si esprime grandissima gioia. Cioè lei si sente liberata quando... Senti, mi dici, proprio in conclusione, Gabriella, qual è stato il lavoro della mamma e cosa sarebbe accaduto a una ragazza come Benedetta se non ci fosse stata una mamma a occuparsene come manager, come educatrice, come medico, come tutte le figure che hai riassunto? Sarebbe stata una ragazzina che avrebbe avuto pochissime parole, cioè non avrebbe parlato tanto, non sarebbe riuscita a leggere, non avrebbe fatto le percussioni, cioè sarebbe stata lasciata un po' a se stessa. E questo non pensavo proprio, cioè per me era proprio fuori da ogni concezione poterla abbandonare. Io ho dato tutta la mia vita e devo dire sono contenta che la seguo a Londra, ecco, che mi consente. Allora in bocca al lupo intanto per il concerto di Benedetta. Vado avanti nella mia rassegna di mamme supereroine o qualcosa del genere, non so se questo è il termine con il quale amerà essere definita. Maria Cucullo, che ha 8 figli. 8 figli fatti in quanto tempo? Guarda, il primo ha 23 anni e l'ultimo ha quasi 11 anni, quindi fai il calcolo. Uno all'anno? Sì. più o meno. Ma sì. Ti fermerai o andrai avanti fino... Beh, guarda, il tempo non me lo consente di andare avanti, quindi no, perché c'è un limite. Ne fai altri 3, fai una squadra di calcio. Magari. E con quelli che hai a disposizione cosa fai? Come passi il tempo? E come passiamo il tempo? Il tempo è abbastanza pieno comunque. Questo non lo è posso che immaginare. Possiamo permetterci di domandarvi come passare il tempo. No, comunque noi siamo contenti, abbiamo accolto questi figli... tutti accolti e voluti, quindi le problematiche ci sono. Beh, che vengano per sbaglio 8 figli mi sembra un margine un di errore assurdo, un po' assurdo. Vero? Sì. Lo so. Avrei una convinzione per cui reputi giusto fare tanti figli. Però come ascoltavo anche l'altra mamma, sentivo che le problematiche ci sono. Oggi è vero che siamo come famiglia un po' abbandonati dalle strutture, ma come ti guardano le strutture sociali quando tu vai e dici 8 figli? Come un essere strano, perché è completamente fuori standard. Innanzitutto ma non c'è struttura sociale che ti dia una mano, se vogliamo, perché tutti ti guardano come folle, diciamo. Cioè, che hai fatto con tutti questi figli? No, molti, sai, ti dicono, anche in maniera abbastanza... volgare, hai voluto la bicicletta a pedale, adesso te la vedi da sola, insomma, capito? Cioè, perché è una colpa far tanti figli. Sì, è vero, però sembra assurdo. Sembra che uno degli sport nazionali più condiviso è quello di permettere a chiunque di aver figli o comunque di potersi prendere figli. Uno che ne fa tanti, perché deve essere visto come qualcosa che va contro la regola? Agli occhi di chi forse ha altre vedute, agli occhi nostri non è così, per carità, comunque è fonte di ricchezza ed è vita. Comunque tu te li mantieni, te li tieni, non è che in fondo sei socialmente negativa per qualcun altro, non togli spazio agli altri. Penso proprio di no, anche perché oggi come oggi si parla di che ci sono pochi giovani e troppi anziani, io contribuisco. Ma anche tu speri che ci sia un futuro leader fra i tuoi figli? Un futuro, guarda, sinceramente noi non è che ci proiettiamo molto al futuro. Diciamo che il presente già ti assorbe abbastanza. Sì, no, siamo molto proiettati sul presente, il futuro non lo guardiamo, perlomeno. Allora io voglio concludere, ti ringrazio intanto con Rachele Bonanni che è qua in studio con me, è stata una velocissima carrellata, poi vediamo di tirare una sola conclusione. La frase di questa ultima mamma che dice: non siamo proiettati verso il futuro, ma non perché non abbiamo idee di lungimiranza, perché il presente ci assorbe già tutto. Sì. Capisco perfettamente questa frase, la vuoi spiegare meglio? Assolutamente. Intanto, ovviamente, come diceva chiaramente Maria, nell'avere 8 figli le preoccupazioni quotidiane sono tali per cui veramente quello che devi organizzare è effettivamente l'oggi e soprattutto nel momento in cui, come ha testimoniato anche lei, le strutture ti abbandonano e anzi chi si rivolge a te ti guarda nel caso in cui fai più figli, cioè anche il mio 3 già sono tanti, a me la prima cosa che mi dicono tutti: che coraggio. No, non è il coraggio, cioè è il fatto che ci piace fare l'amore, il fatto che ci piace comunque pensare di rendere immortali. Certo, lo so, però comunque voglio dirti anche non lì il mio problema, cioè la mia invece visione del futuro è una curva demografica che sta diventando una tragedia e per cui ovviamente i nostri figli sono realmente un'opportunità. Poi è chiaro che appunto freelance, precariato, ragioniamo sull'oggi e cerchiamo di impegnarci quanto più possiamo per far sì che anche loro partecipino del loro futuro. Come si fa a raggiungervi? Solo questo in conclusione. Allora, intanto c'è un sito mammaaiutamamma.it che ha anche una funzione proprio informativa di mettere in collegamento e creare la rete e poi dopo si possono seguire sempre attraverso il network tutte le attività che svolgiamo sul territorio in tutta Italia, sia a Pescara, a Roma, dove sono le mamme del network. Sono anche delle sono azioni attività, concrete. Sono attività per i bambini che rendono i bambini protagonisti e che ripartono da un'educazione che non è più solo un'educazione di scuola, ma è sport, è appunto internet, è il futuro, la creatività. Che danno un senso a quel tempo che è così prezioso, corre così veloce e che ti permette di essere concentrato, come diceva la mamma prima, soltanto sul presente. Ma che ti aiuta come generazione a interpretare l'oggi e la società di oggi, perché la scuola, le maestre, tutti noi non siamo ancora consapevoli di che cosa stiamo generando, quindi i nuovi modelli educativi devono essere costruiti insieme. Saranno i vostri figli a indicarvelo quando voi ormai sarete materiale d'auspicio. Loro saranno nuovi leader, futuri leader e voi mamme felici avrete creato la vera classe che sarà il nervo portante della nostra società, almeno questo mi auguro. Grazie, alla prossima.